24 Mattino. Io sono il nonno di 3 nipotini, ho 71 anni. Mia figlia, mio genero, devono andare a firmare il mutuo. I 3 nipotini dovranno essere lasciati solo in macchina. Qual è l'altra soluzione? Visto che i nonni non ci possono andare, che ci è vietato, e poi i nonni sono poco affidabili e i babysitter sì? Ma Simone, quale chiacchiere stanno a zero? Secondo me bisogna riaprire qualcosa con i dispositivi di protezione, il distanziamento sociale, però qualcosa tocca riaprire perché altrimenti ci saranno problemi molto seri e la politica lo deve capire questo. Buongiorno, sto sentendo le vostre interviste. È bello sentire la gente intervistata che magari è dipendente e non ha la partita come me, la partita IVA, che non prende neanche un soldo. Chiamate noi che non abbiamo neanche più un soldo e diteci voi come dobbiamo campare se non lavoriamo. Eh sì, e infatti le vostre voci le raccogliamo, come sempre. E come sapete, fin dall'inizio l'accento sulle partite IVA, sui lavoratori autonomi l'abbiamo sempre messo, con l'impressione che il governo non avesse fatto e non abbia fatto abbastanza. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Buongiorno Simone, buongiorno italiani e forza che ce la faremo assolutamente. Io chiedevo, non è possibile mandare a lavorare nei campi quei signori che prendono il reddito di cittadinanza per compensare la mancanza di manodopera? Dai Simone, non essere così critico nei confronti del governo. È vero che sta creando un sacco di task force perché non sa cosa fare, però creando tutte queste task force sta creando occupazione, quindi non sottovalutiamo questo aspetto. La grande soluzione è migliaia di task force in tutta Italia per risolvere il problema occupazionale. Beh, non è male, non è male. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccoci qua. Allora, task force a parte, iniziamo dal presidente del Consiglio Conte, va, e da questa intervista che rilascia alla Süddeutsche Zeitung, riportata dal Fatto Quotidiano a pagina 3, con ampi stralci nella quale dice, insomma, il MES è screditato, cioè ha una brutta fama, qualsiasi cosa voglia dire, l'Europa si salva con i nuovi bond, e parla anche, torna a parlare di un'Italia lasciata sola. Che dici? È proprio all'inizio l'intervistatore, che è un bravo giornalista della Süddeutsche Zeitung noto, che si chiama Oliver Mailer, gli dice: ah, presidente Conte, molti italiani trovano che il suo paese sia stato lasciato solo. Lui dice: è innegabile che è stato lasciato solo, apprezzo le scuse di Ursula von der Leyen, però ci avete lasciati soli. E poi ribadisce il concetto che dovrebbero farsi un'autocritica ai paesi del nord. Dice: non posso certo suggerire io Angela Merkel e Mark Rutte, che sono i primi ministri tedesco e olandese, come parlare ai loro cittadini. Posso solo ripetere il mio punto di vista, che deve cambiare ora. Insomma, mette un po' le carte in tavola e si avvia a questo vertice del 23 aprile, sul quale torneremo, dicendo: guardate, io non cedo, no al MES, no al Fondo Salva Stati, che fu quello che portò all'aggravamento della crisi greca, e invece bisogna fare gli eurobond. I paesi europei non ci sentono, e leggo da un articolo di Laura Cesaretti sul giornale, sì, che in realtà la verità è che tutti dicono in Parlamento che Conte è pronto ad ingoiare il MES, sì, e gli alleati di Conte gli dicono: beh, spiegalo tu ai grillini. Italia Viva, in particolare questo è riportato tra virgolette, lo ha già accettato, però finge di essere in una trattativa. Vedremo. Sì. Vedremo se finge. Cioè, adesso, secondo me, in queste vicende non c'è mai il giorno della verità, perché c'è sempre la carta segreta, che è la carta del rinvio. Si rinvia un ulteriore momento in cui nel frattempo si accetta quello che è stato detto e poi si dice, beh, vedremo, ci rincontreremo. Sì, questo incontro il 23 aprile, il 10 maggio, poi il 15 maggio e così, ma nel frattempo si accetta sostanzialmente, come già è avvenuto nel precedente incontro, si accetta il MES. Sì. Al massimo credo che l'Italia potrà ottenere che si cambia il nome al MES, perché questa è un'altra cosa italiana. Sì, cioè, sì, perché non lo puoi nominare, la cosa è che non lo puoi nominare, non lo puoi nominare. Esatto, poi, non lo nomini, cioè, questa è la cosa fondamentale. Stati, fondo per gli stati che saranno salvati, sì, esatto. Inverti il nome, inverti il nome, e a quel punto, lo puoi far accettare. Mi sembra essere la soluzione. Del resto, però, bisogna dire che Conte, l'attuale maggioranza, i grillini se li stanno cucinando già adesso ben bene, perché avrei visto che tutti i giornali sono pieni di questa questione delle nomine. Sì. I grillini si erano seduti al tavolo delle nomine, anzi rifiutato di sedersi a tavola nomina, dicendo no, noi finché ci sono personaggi come Sandro Profumo e Claudio Descalzi che sono imputati in processi, neanche ne vogliamo parlare, alla fine hanno accettato tutto. E io non direi, perché mi sembra volgare dire in cambio di una manciata di poltrone, però è un fatto che hanno accettato numerose poltrone di presidenza anche della stessa Eni, cioè l'ente guidato da Descalzi, dicendo che però loro lì ci mettono delle persone brave che controlleranno, ma non tutti fanno gli ipocriti, perché come avrei visto è tornato Di Battista che ha lanciato una bomba atomica contro questa trattativa sulle nomine, e devo dire lo stesso Fatto Quotidiano è molto energico, cioè non fa finta che questo non sia successo, e racconta quotidianamente che tutta quella insomma fatta sulle nomine è stata una pantomima, e che sostanzialmente, questo è il Fatto Quotidiano che lo dice, i 5 Stelle si sono calati le braghe, lasciando capire come se le sono calate sulle nomine, che è assai meno importante, così si regaleranno sul MES. In tutto ciò si parla abbastanza esplicitamente, mi sembra, Paolo, a testimonianza, no, che la politica è tornata alla normalità, si parla esplicitamente del tema della guida del Movimento 5 Stelle, no? E il ritorno di Alessandro Di Battista sulla scena rappresenta questo, giocato su una serie di fronti, le nomine, il MES, insomma lo stesso, probabilmente lo stesso sostegno al governo, no? Dice, ma noi che ce ne importa dell'Europa, di queste alleanze? Già da tempo noi abbiamo un rapporto di interlocuzione con la Cina, mettiamoci con la Cina. Adesso io semplifico, perché a quest'ora del mattino bisogna dire le cose in modo ultra rapido e ultra semplice, però propone un asse italo-cinese, e anzi dice che l'Italia è in grande vantaggio, l'ha detto ieri sempre, una lettera al Fatto Quotidiano, che è centrale per guardare dentro alle vicende dei 5 Stelle, e tutti reagiscono perplessi, anche perché non è una buona carta per presentarsi al tavolo delle trattative con il resto d'Europa, di dire che noi saremo l'ambasciata cinese in Europa. Come fu l'Albania di Enver Hoxha ai tempi di Mao Zedong, adesso dovrebbe essere l'Italia di Conte ai tempi di Xi Jinping. Insomma, questa è una tesi bizzarra, però interessante. Sì. E tra l'altro, per come stanno andando le cose al mondo, cioè che l'Occidente sta sprofondando e la Cina regge, può darsi che oggi noi facciamo delle riunie alle 8:15 del mattino, ma domani dovremmo registrarla come uno dei fatti salienti della svolta geopolitica del nostro pianeta. Sì. Senti, a proposito della gestione del governo, della questione MES e soprattutto dell'aspetto politico, insomma della tenuta del governo Conte, c'è tutta questa storia della ricerca dell'appoggio di Berlusconi, no? Berlusconi glielo ha offerto, perché ieri tu dici? Siamo rimasti tutti. Beh, insomma, tra le righe, Berlusconi è molto tenero nei confronti di questo governo, e Conte ha ricambiato ieri con un'intervista al giornale a Sallusti, in cui ha coperto di miele e marmellata il direttore del giornale Sallusti, dicendo: lei sì che è un grande del giornalismo del nostro, insomma, lì c'è sicuramente qualcosa. Tutti gli esponenti di Forza Italia dicono: no, non è vero, non c'è nulla di vero, però l'idea che nel caso i grillini esplodano, nel caso improbabile che sì, i grillini, al momento improbabile che i grillini esplodano, la truppa di Forza Italia, parte della truppa di Forza Italia, sia disponibile ad andare in soccorso al governo, beh, questo lo danno un po' tutti per scontato. Poi che basti sì, a dare stabilità al governo, dubito, sì, però insomma, però Berlusconi si è offerto, e la divaricazione nel centrodestra ovviamente è una divaricazione forte, anche perché la polemica del governo nei confronti della Lega, nei confronti dei Fratelli d'Italia e soprattutto nei confronti delle regioni guidate dal centrodestra, le regioni del nord, sì, è ancora una polemica molto molto vivace. Quindi anche questa posizione di Berlusconi va monitorata, sì, giorno per giorno, perché può darsi che questa volta i coraggiosi, come vengono definiti, sì, normalmente i responsabili, cioè, no, sarebbe ben una delle bizzarrie della storia che Berlusconi si trovasse nelle condizioni di essere lui un responsabile, non lui personalmente, perché lui non è parlamentare, no, certo, però, certo, i suoi a fare i suoi, vedremo. Come avrete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, con Paolo Mieli abbiamo parlato per 6-7 minuti di politica, si torna verso la normalità, per così dire, forse anche questo è un errore. Traffico intanto. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. Mattino. Sì, sembra di essere tornati a un paio di mesi fa, 2 mesi e mezzo fa, quando parlavamo appunto dei responsabili, delle divisioni all'interno dei 5 Stelle, va ben, mentre invece non siamo a 2 mesi fa, e ben lo testimonia il Sole 24 Ore oggi nella sua edizione del lunedì, che come sappiamo è un'edizione settimanale, che ci racconta per esempio il caso della giustizia, che in questo momento si sta salvando online, ma ci raccontano i colleghi che firmano i pezzi, da luglio, Paolo, è rischio caos. Da luglio è rischio caos. Adesso, diciamo, tranne in alcune situazioni di emergenza, soprattutto ancora la Lombardia, ma il Piemonte, allarma il Piemonte, perché lì è più difficile la battaglia per stroncare definitivamente il coronavirus, mentre invece, non so, dire, nel Lazio è ridotto quasi a zero. C'è una certa euforia, si torna, noi l'abbiamo salutata parlando di politica, però i giornali la salutano parlando di spiagge, di imminente riapertura dei ristoranti, forse sperano tutti presto. A proposito, c'è una bella intervista sulla Verità ad Arrigo Cipriani, proprietario di uno dei ristoranti più famosi del mondo, l'Aris Bar di Venezia, che dice la sua ricetta e racconta che suo figlio ha avuto il coronavirus, però poi dice che il governo va a tentoni, la UE ci fa l'elemosina, numeri alla mano sarei già finiti, e loda il comportamento di Zaia, il governatore del Veneto. Non è il solo a lodare il comportamento di Zaia, anche fra coloro che sono avversari alla Lega. Ma dicevi giustamente, la giustizia, la fa da padrone, sia con queste pagine 2 o 3 del Sole 24 Ore, la telematica sblocca la giustizia, ma timori su privacy e garanzie di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei, poi nei TAR, Consiglio di Stato, udienze online senza legali, Antonello Cherchi, maxi processo su Zoom e YouTube con testimoni da tutto il mondo, Nicole degli Innocenti, insomma c'è un boom, però come hai detto giustamente tu all'inizio, tutti si domandano ma quando è che si torna nei tribunali e nei processi regolari, in quelli in cui uno guarda anche in faccia bene, da vicino l'imputato, c'è l'abilità degli avvocati dell'accusa o della difesa, insomma c'è una certa apprensione nei confronti di questo sconvolgimento della giustizia online. Però per chi vuole saperne tutto, sì, ripeto, pagina 2 o 3 del Sole 24 Ore, mentre invece per chi vuole sapere sulla giustizia quell'altra, quella fatta di magistrati che vanno a indagare sugli ospizi, in questi casi sui ricoveri per anziani, beh, lì ci sono tutti gli altri giornali, Corriere della Sera, l'indagine è sul Trivulzio, ma la destra risponde, cioè, guardate che anche nelle regioni rosse, anche nel Lazio, anche in Toscana, ci sono, sono state applicate le stesse normative, sì, che ha applicato Attilio Fontana, e ci sono casi gravissimi nelle case di riposo. Io lo dico dal primo momento, oggi c'è Saviano, sì, poi su Repubblica, Roberto Saviano, che dice guardate, il momento di fare giustizia è qui e ora, non che è questa richiesta garantista di rinvio. Io sono per il partito della prudenza, perché siccome seguiamo per dovere, per lavoro, anche i giornali italiani, vediamo che questo problema delle case per anziani è scoppiato in maniera vistosa in Spagna, in Francia. Sì, i numeri sono impressionanti, dappertutto. Sono peggiori dei nostri. Allora, aspettiamo di vedere, perché poi la questione della giustizia è questa, che si siano fatti errori nella concitazione di un virus che arriva in maniera così esplosiva, non è solo probabile, è sicuro. Il problema della giustizia sarà di vedere se sono stati fatti per dolo, cioè se qualcuno, sì, li ha fatti sapendo che stava facendo degli errori per guadagnarci dei soldi o dei vantaggi politici, che è la stessa cosa. Ma infatti se non vado errato, proprio sul Corriere della Sera oggi o non mi ricordo su quale altro giornale, si dice abbastanza chiaramente che l'inchiesta in questo momento è orientata sul tema degli omessi controlli, molto più che sul dolo, appunto, che sulle ordinanze, quantomeno per quanto riguarda la Lombardia. È evidente, anche perché oggi col senno del poi capiamo tante cose che allora forse non saremmo riusciti a capire, ma la questione è questa: quando esplosero gli ospedali, gli amministratori mandavano i malati che altrimenti dovevano tenere su un marciapiede perché anche i corridoi erano stracolmi, li mandavano nelle case di riposo a patto che le case di riposo dicessero che sarebbero stati separati dagli altri ricoverati. E le case di riposo dicevano che sarebbero stati separati, ma le separazioni nelle case di riposo erano molto diverse da quelle che ci sono negli ospedali, cioè non erano separazioni stagne, e quindi con queste separazioni all'acqua di rose è accaduto, non poteva accadere, ed è accaduto quello che è successo. Ma lì, ripeto, bisogna vedere quant'è il dolo, oppure se è qualcosa che capita in prima di concitazione, anche perché se li avessero rimandati a casa, e molti sono stati rimandati a casa infettavano, non dico solo, non solo la loro famiglia, ma l'intero caseggiato. Sì. Comunque, chiuso con la giustizia, anche se più ci si rilassa sul fronte della battaglia al virus, più ovviamente questo tema della giustizia terrà. Verrà fuori, campo. Chiaramente, verrà fuori, ovviamente. Ci sono le malignità perché i giornali di destra mettono in evidenza che anche Carlo De Benedetti, l'editore di Repubblica, è proprietario, comunque partecipa alla proprietà di alcune di queste case di riposo, e quindi anche lui, anche nei suoi confronti sarebbe stato aperto un fascicolo, ma insomma Mi sembrano miserie, sì. Sì. E come, io non so se siano come le giudichi tu, però insomma sembrano un po' miserie anche a me questi scontri nord-sud, De Luca che dice chiudo i confini, Zaia che dice ma di che cosa stiamo parlando, e poi anche là all'ombra di questa vicenda dell'RSA, lo scontro tra la Lombardia e il Lazio, questo rimpallo di responsabilità, insomma siamo passati un po' dallo scontro. Io spero che siano finte. Perché fossero vere mi allarmerei molto, nel senso che noi andiamo davanti all'Europa, l'abbiamo detto all'inizio, a dire no, è un popolo orgoglioso, e poi ci mettiamo a litigare tra le regioni. È evidente che persone sospette di malattia o di contagio che abitano nelle regioni del nord non potranno andarsene in vacanza in Calabria, in Sicilia o in Puglia, o in Campania. Però è altrettanto evidente che fare dei manifesti, no, voi del settentrione non entrate, è un capovolgimento della situazione in cui ci trovavamo al momento delle grandi emigrazioni fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Non si affittano case ai meridionali, si diceva allora, adesso si dirà non si affittano case settentrionali nei posti di vacanza del sud. Mi sembra ridicolo, un modo molto poco. Fanno bene i governatori delle regioni del sud, e questo va reso atto sia Emiliano, Puglia, sia De Luca, Campania, che fecero bene a far la voce grossa quando ci fu quel fuggi da Milano intorno all'8 marzo, ma adesso questa diventa la caricatura di una cosa seria che fu fatta un mese fa. Ultimo tema, ma tema dai, diciamo così, prendiamolo un attimo più leggera, va. Ho beccato su Libero, l'hai vista questa intervista con Massimo Boldi, mi è saltato il flirt con Vandanara. Vabbè ragazzi, dai, su un po' più leggera. Brava la giornalista, lodiamo, Alessandra Menzani di Libero, perché ha intervistato Boldi, un attore che tutti conoscono, e gli ha tirato fuori che anche Boldi è cospirazionista, cioè si allarga la schiera capitanata, e Boldi riconosce che i veri leader sono stati Vittorio Sgarbi e Red Ronnie, che dicono c'è qualcosa di misterioso dietro, qui c'è un complotto, c'è una congiura. Lo leggo, Boldi... aspetta, da due mesi non ci sono automobili in giro, in clima l'inquinamento ne giovano, se uno guarda l'Italia ai raggi X vede che è pulita, è stato organizzato tutto per dare 20-30 anni in più al pianeta, cioè la tesi di Boldi è che è un complotto di chi è contro il cambiamento climatico, vabbè. Però, ripeto, lui si registra come soldato semplice in un esercito che è capitanato da Sgarbi e Red Ronnie. Non ha pretese di conduzione. Brava Alessandra Menzani e bravo Boldi, nel suo genere ha trovato un altro modo per farci sorridere. Va bene, grazie Paolo Mieli, ci sentiamo mercoledì naturalmente, GR24, poi ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Riapertura, sì, no, come, ne parliamo tra poco.